Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer. Dernier jour de mes jours, et le mer. Ah, dai, basta con questa. Mamma, che tristezza. Lagna, ma tanto Giorgio De Luca, nostro dottore, oggi andrà a Roccabelli in regia in contumacia di Edoardo Lavezzari, che salutiamo a casa sotto le coperte. Manca anche Gianmarco Ferronato. Manca anche, cioè, qua che io torno dopo una settimana e mancano tutti. Mancano tutti. C'è Pierre. Ci sarà un perché. C'è Pardo. Eccoci qua. Sì, però qua. Al di là della musica francese molto menesa, tanto ormai tutti sanno che oggi della remontata del Barcellona, delle grane del Paris Saint-Germain, di Juventus Milan di stasera, frega niente a nessuno, perché tutti sono lì in attesa della sfida per la schedina tra Pardo e Capuano. Ma sai, Carlo, non sono del tutto d'accordo con te, perché no. quando la sfida è equilibrata, allora c'è massima attenzione, ma quando il pronostico è chiuso ormai da tante settimane, no, da due settimane, io sono, sì, c'è un dominio così evidente, così netto, sì. Non so, io temo che stia un po' scemando anche l'interesse del pubblico. No, ma vedi, il problema è che settimana scorsa ero in birreria ad Amsterdam a fare la schedina, posso aver fatto qualche errore, ma oggi mi rifarò. No, ma l'ho visto che studiava degli algoritmi strani, Ma sì, quindi, sì. Comunque, dopo il GR delle 15 vi promettiamo la schedina, la sfida Pardo Capuano, che è la sfida infinita. Sfida infinita, che è nettamente più interessante. Che poi siamo 5-4 per lui, cioè adesso riconduciamo. È vero che ha vinto le ultime due, però da un conteggio fatto da Capuano, io chiedo il riconteggio, non è, c'è più distanza. Andiamo a contare i voti. Va bene, come in Texas. No, senti, Parigine in lacrime. Volevo partire da questo seriamente. Parigi in lacrime, Altani, scrive qualcuno, che dopo aver speso qualcosina come 700 milioni dal 2011, quando ha rilevato Paris Saint-Germain, a oggi ha vinto certamente qualche scudetto in Francia, ci mancherebbe, ma sul fronte europeo mica tanto. Emery, che era il mago, il genio dei turni di Coppa, è finito sulla griglia. Capuano, tu che conosci la stampa internazionale, che è stato scritto? Ma guarda, oggi, soprattutto sulle Parisienne, che è il quotidiano più vicino al Paris Saint-Germain, c'erano due analisi. La prima sulla partita col Barcellona, che parlava di un fallimento annunciato. Perché annunciato? Perché comunque c'è questa critica forte che dice che il Paris Saint-Germain continua ad essere una squadra non competitiva ad alti livelli fuori dalla Francia. Il campionato francese continua a essere non competitivo, e quindi, per dirla alla Capello, non allenante, e rischia di trasformarsi in un circolo vizioso e non virtuoso. Però era più interessante la seconda parte, cioè che cosa succede adesso dopo il fiasco, scritto proprio così in italiano, e tra le varie conseguenze, al di là del futuro di Emery, di tante star a partire da Verratti, c'era anche questa domanda, cioè se gli emiri avessero voglia ancora di continuare a investire in maniera massiccia per continuare a vincere in Francia e basta, che credo sia ci poi sarebbe la un vera club domanda. Con l'emblema del diavolo in Italia, sì, che potrebbe essere interessante. No, ma quello lo prendono i cinesi, no? Ma quali cinesi? Quali? Quelli di Chinatown di Milano lo prendono. No. Pierluigi, no, però al di là di questo, insomma, non competitiva a livello internazionale Paris Saint-Germain non direi, perché se ne dai 4 al Barcellona può esserci qualche altro problema sotto. Io credo abbia ancora vivide le immagini di quella partita e le facce dei giocatori del Paris Saint-Germain, che non sono esattamente gli ultimi arrivati. No, ma assolutamente, però non mi stupirebbe, insomma, se, a parte che Cruyff ha parlato l'altra sera e ha detto che è stato difficilissimo metabolizzare questa sconfitta. Ma insomma è abbastanza banale, se vuoi, è abbastanza anche veritiera e onesta come analisi. Io credo che il calcio sia un business completamente diverso da tutto il resto, e in qualche modo gli emiri se ne stanno anche rendendo conto, perché nel calcio non ti basta investire, insomma. Il mercato petrolifero da questo punto di vista ha più certezze, probabilmente. Sì, ci sono delle riunioni, ci sono delle analisi e... Non attraversi esattamente il momento più florido della sua storia. Tra l'altro c'è un contrappasso, c'è una storia che è un contrappasso, perché quest'estate, la scorsa primavera, gli emiri del Paris Saint-Germain, che hanno speso 700-800 milioni, erano pronti a metterne 200 per portarsi Neymar a casa prima che Neymar facesse il rinnovo. E paradossalmente forse gli sarebbero bastati quelli. Guarda, Neymar è sempre stato un pallino del Paris Saint-Germain, perché banalmente aveva fatto prima dell'altra sera 5 gol in carriera contro il Paris Saint-Germain. Adesso è salito a 7, e non sono pochi, perché credo siano 7 gol in 6 partite o qualcosa del genere. Direi 7 gol in 6 partite. Senti, ma faccio malizioso: se Neymar adesso diventasse nuovo idolo del Barcellona, se i tempi sembrano maturi per un cambio della guardia, tipo quello lo scriveva il Mondo Deportivo oggi. Lo scriveva il Mondo Deportivo oggi. Neymar ha fatto 14 gol in questa stagione. Era fino ad oggi, dal punto di vista realizzativo, rimane la sua peggior stagione da quando è arrivato a Barcellona. Quindi io direi di no. È chiaro che la notte di mercoledì non è una notte banale, è una notte che entra nella storia, scolpita nella pietra del calcio, nella pietra della storia del calcio, per avere delle conseguenze e per sparigliare insomma certi equilibri. Però insomma, secondo me Messi, con i numeri che ha anche in questa stagione, è un giocatore che rimane nella testa di serie numero uno, davanti a Suarez e davanti a Neymar. Detto questo, va benissimo. È ovvio che non ci sono discussioni. Per Neymar è stata una notte importantissima, ed è chiaro che ha il tempo dalla sua parte, quindi da questo punto di vista non può che crescere. Senti, un'ultima cosa su questo argomento, poi se volete voi ascoltatori... Se volete ne aggiungo anche un'altra, che c'è questo paradosso, che la prima immagine della rimonta del Barcellona, quella che c'era ieri sui giornali, Spagna, Barcellona, era l'immagine di Messi. In mezzo, quando si tuffa in mezzo al pubblico per festeggiare il gol del 6-1, e se vogliamo è un po', Pier, come quella foto di Cristiano Ronaldo che festeggia ma ha fatto il quarto gol della finale di Champions contro l'Atletico, cioè una presa in cui era stato irrilevante, c'era stato chi era stato più leader di lui. E difatti oggi il vero leader viene fuori, che è stato Neymar l'altra sera e non Messi. No, ma ragazzi, vorrei un'ultima piccola parentesi, poi il discorso resta aperto per tutti voi che volete intervenire a 800 24 00 24. Giovanni, quanto si parla dell'arbitro Aitekin, tedesco, che non era uno dei top 10 d'Europa sui giornali francesi, perché è chiaro che in un'impresa così ci sta anche il rigore regalato, perché fa tutto parte del pacco dono di questa serata incredibile. Guarda, dell'arbitro si parla sui giornali di Madrid. Quelli francesi no. Quelli francesi no, non ne parlavano ieri, se non davvero, per dire, non c'era spazio nelle prime pagine. Poi c'era un'analisi della Moviola. Oggi Marca scrive che Collina lo fermerà perché non gli è piaciuta la direzione, ma scrive anche un'altra cosa particolare, cioè Aitekin era fuori dai top 10 così considerati dalla UEFA, ma era stato mandato a dirigere questa partita perché era considerata una partita ormai chiusa, a basso rischio, quasi un'amichevole di lusso. E poi si è trovato per le mani la rimonta del secolo. Va bene, ci fermiamo per il traffico, poi andiamo sulla Roma, che invece ieri ha confermato di essere in un momento, se non nero, almeno grigio scuro. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. All'incrocio dei pali per il 4-2 del Lione. Finisce 4-2 per il Lione. Se Secondo me la squadra non ha fatto malissimo, ha perso un po' di distanze, ha dato qualche possibilità lì sulla tre quarti, quello dove ci abbiamo preso i gol con questi tiri da fuori, e poi non siamo riusciti a chiudere delle altrettante situazioni importanti e ci siamo creati, ecco. Però poi è un risultato abbastanza pesante, anche questo qui è abbastanza difficile da ribaltare, ecco, anche in questa azione qui. Simone è partito forte, però ci abbiamo messo troppo per riversarsi nella loro metà campo, poi per andare a rifare squadra corta che gli potesse risaltare addosso, ecco. Insomma, uno Spalletti un po' depresso, Roma in crisi o in crisetta, fatto sta che terza partita persa consecutiva dopo il derby, dopo la partita interna con Napoli in campionato e ora a Lione, 8 gol subiti che mi sembrano tanti, stanchezza, panchina corta, un po' di scoramento, forse anche qualche rumor di troppo intorno a Spalletti, qual è l'ingrediente principale? Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano qui con me, Cernini è un tuo e nostro amico come Giancarlo Dotto. Ah, molto bene, ciao. Giancarlo. Ciao a voi. Qual è il principale di questi elementi per questa? Innanzitutto, come la definisci? Crisetta, crisona, crisi nera, crisi grigia? Giancarlo? Ah, sono io prima, bene, allora vado. Buongiorno a tutti i convocati, allora... come la definirei? O siamo di fronte a una raffinata strategia, cioè di 3 sconfitte per creare i presupposti dell'impresa, un po' come ha fatto il Barcellona a Parigi, naturalmente era tutto studiato a tavolino, oppure, ma questo non mi sembra probabile, oppure siamo di fronte a una crisi importante che nasce da un paio di fattori. Vado subito in sintesi a elencarli. Uno, non c'è una squadra al mondo del livello della Roma, ma anche sotto il livello della Roma, che abbia un organico di 14-15 giocatori più 2 portieri, perché poi gli altri o non li vede o non li vede. L'altra componente è la quantità industriale di sfiga che colpisce questa squadra. Io mi rendo conto che lo sfiga è un concetto un po' astratto e un po' generico, ma io ho una visione molto precisa invece tecnica della sfiga. Visione tecnica della sfiga? Sì, bisogna dare una definizione che do la mia, cioè la sfiga è quella cosa per cui naturalmente le cose diventano cattiva sorte quando la tua mente non riesce a trasformarle in buona sorte. In questa squadra la sfiga è soprattutto dettata dal fatto che manca un leader, per capirci, il leader alla Falcao, che quando la Roma perde una partita decisiva all'Olimpico con la Juventus, che forse ricorderete o forse no, la domenica dopo c'è la partita, c'è la trasferta a Pisa, decisiva per lo scudetto, e Falcao dice, va in televisione e dice, andiamo a Pisa a vincere. Manca anche questo, quindi manca leadership, manca fortuna e manca organico, mancano uomini, manca carne da cannone. Manca carne da cannone, sono d'accordo. Sì, però che manchi leadership in un gruppo che ha De Rossi, Totti, che è un leader nato. Sì. Sono leader di campo, sono grandissimi giocatori, ma il leader è un'altra cosa, è quello che trasmette alla squadra. Qui siamo arrivati al confine di una brutta storia, bisogna rivoltarla. Guarda negli occhi e tutti lo seguono. Vabbè, Spalletti è un leader, ma sta fuori dal campo. Totti sta in panchina. Pardo. Ma io credo che il problema principale sia di natura fisica, sinceramente. La squadra è stanca. Devo dire che contro il Napoli in realtà le cose migliori le ha fatte nell'ultimo quarto d'ora, ma probabilmente è stata soltanto una reazione di natura emotiva, di natura psicologica, perché ieri si è visto proprio il tracollo fisico di questa squadra. E è una crisi profonda, soprattutto perché le tre sconfitte consecutive sono arrivate in un momento decisivo della stagione, sono arrivate in una fase nella quale veramente è tutto clamorosamente complicato, e quindi insomma è evidente che oggi la stagione della Roma è improvvisamente appesa a un filo. Uh-huh. È paradossale dirlo, ma insomma in questi 8 giorni è successo di tutto. Come uscirne non lo so, sono d'accordo con il professor Dotto sul fatto che c'è un'anomalia che sta nella rosa, sì, la rosa della sì, Roma sì, probabilmente negli 11 la Roma se la gioca col Napoli, forse anche qualcosa in più, non lo so, siamo lì. Guardiamo la quantità di cambi, poi lascia perdere che non li fa. ma la quantità di cambi che ha a disposizione Sarri è nettamente superiore rispetto agli uomini di Spalletti. Poi si può sempre rivoltare il discorso e dire che magari Spalletti dovrebbe provare altre soluzioni, però mi sembra oggettivamente insomma che io dico che 15-16 giocatori non li abbia. Dimmi Giancarlo. Io ho un'idea di come uscire, una mezza idea di come uscire, cioè vabbè, intanto che i tifosi tornino allo stadio a partire da giovedì prossimo, soprattutto giovedì prossimo, tornino in massa allo stadio, perché non è possibile che Roma vada ovunque ad apprezzare stadi assolutamente gremiti, bollenti, inferociti, e poi questa cosa. La seconda cosa è che Spalletti dica chiaramente, magari alla vigilia di Roma-Lione, dica chiaramente: io resterò o non resterò alla Roma, ma esca fuori dalle sue contorsioni, da questi labirinti che sono sempre di più le sue conferenze stampa, il suo discorso, e dica chiaramente una frase. E su questa si possa accadere quel click, quella trasformazione di situazione, quel ribaltamento di cui la Roma oggi ha bisogno, perché la Roma, vista nel secondo tempo, a Lione non si teneva in piedi per ragioni fisiche, ma probabilmente anche mentali. Sì, poi si parla di qualche un po' come Luis Enrique. Ancora di qualche scricchiolio che ha detto vado via a fine stagione e il Barcellona è no, è ma io dica qualcosa di definitivo, di chiaro, di chiaro. Sì, esatto, però, no? Esatto, perché secondo me c'è anche qualche, cioè Spalletti tutte le volte che gli chiedono dei contratti svicola da una parte o dall'altra, parla del contratto di Totti che no, deve essere, no, abbiamo parlato del tuo contratto. No, Totti deve rimanere. Poi si parla di qualche scricchiolino interno invece di nuovo con Totti. Ieri sera rosa corta, manca leadership, non gli fa strusciare il campo. A questo punto l'Europa League deve essere l'obiettivo principe per la Roma. Il 4-2 di Lione. Beh, anche il secondo posto, eh? Anche il secondo posto. Non può mollare nessuno. Beh, ecco, il paradosso è che non può mollare non credo, niente. Esatto, non credo è che possa condanna. Mollare nulla. È chiaro che con Lione. A me con Lione sembra un po' più facile che contro la Lazio, prima di tutto anche perché è una vera partita in casa, mentre quello è comunque sempre un derby, quindi è una partita in casa fino a un certo punto, e poi 4-2 ovviamente è molto più semplice da ribaltare del 2-0. Però è anche vero che arriva prima, arriva in un momento in cui la Roma sembra veramente sbandata, magari il 5 o il 4 aprile sarà un periodo più tranquillo, non lo so. Bisognerebbe anche capire i carichi di lavoro dal punto di vista fisico. Può darsi pure che si sia sbagliato qualcosa, che si sia aumentato, si sia potenziato in maniera a questo punto. Però ieri giravano quei numeri che credo abbia visto anche tu, Pier, secondo cui, prendendo come riferimento la partita col Napoli, la Roma aveva corso più come quantità e più come intensità di tutta la media stagionale. Quindi questo in teoria smonterebbe la tesi del calo fisico. Ci sono stati anche sicuramente degli errori individuali pesanti. Ad esempio Fazio, che è uno Fazio che... non sta in campo in questo momento, Pier. Beh, ieri ha creato dei gol, però... Però voglio dire, sicuramente è un giocatore che probabilmente è andato al di sopra delle sue stesse qualità per 5 mesi della stagione, e poi ha avuto un crollo nel derby e poi nella partita contro il Napoli. Quindi ci sono anche questo tipo di dinamiche, questo tipo di situazioni, onestamente. E come uscirne non lo so, io francamente non lo so. Penso che adesso ci sia una partita molto insidiosa, che è quella di Palermo, ma insomma meno peggio di altre, la Roma debba prima di tutto tornare a vincere una partita, perché sì. Se torna a vincere una partita ritrova un minimo di consapevolezza e di fiducia nelle proprie qualità. Se la crisi è psicologica, c'è bisogno assolutamente di girare la ruota, e quindi insomma domenica sera credo sarà decisiva. Sì, io ho un messaggio da girare al professor Dotto, che viene da Andrea, da New York, poi ce ne sono un altro paio simili, così facciamo sintesi. Ma se Spalletti dovesse dire una cosa che non può dire oggi, cioè va via sottotitolo, sto aspettando la Juventus, no, e questo senza, ovviamente senza non è accettabile sottotitolo. Dall'ambiente di Roma, ma intanto non c'è bisogno che dica, e assolutamente non può e non deve dire vado, ma deve dire una frase con assoluta chiarezza: resto o me ne vado, perché in qualunque modo per questa squadra in questo momento qualunque partita è complicata, anche quella con il Palermo lo sarà, quindi in questo momento serve una scarica, una scossa elettrica. Un tempo sì. Si risolvevano i malati psichiatrici con l'elettroshock. Diciamo che ci vuole in questo momento, allora, e può darlo solamente Spalletti, perché nel bene e nel male Spalletti è la voce, il corpo, è la carne di questa Roma, è la testa di questa Roma, quindi non può che partire da lui. Lui si è assunto questa Roma da cima in fondo, sulle spalle, nel bene e nel male. Adesso deve assumersela in quello che è il momento più critico della stagione, ma anche del suo ritorno a Roma, assolutamente. Sono d'accordo con te, deve uscire allo scoperto, chiaramente non può dire alla Juventus, succede la rivoluzione. Eviterei di farlo. Grazie Giancarlo, alla prossima. Ciao, Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno e grazie per la convocazione. Allora, io mi sono presentato dicendo che avrei voluto fare una battuta sulla rimontata del Barcellona. Sì. Chiaramente l'arbitro è stato pagato dalla Juventus, perché nel Paris Saint-Germain ci sono due ex napoletani. Mm. E vabbè, questa la partiamo così. Quindi... ci sono anche degli ex juventini, perché io ho incontrato Blanc a fine partita, ovviamente, ma non entusiasta. Beh, va bene, comunque in ogni caso io avrei voluto parlarvi dalla vigilia di Real Madrid-Napoli. Allora, mi è sembrato un po', sono caduti nel patetico, fare arrivare Maradona negli spogliatoi, così, poi tutti questi piagnistei, l'ultima cosa che è successa l'altro ieri, che hanno attaccato un giornalista solo perché si prende la gente, e non ultima la dichiarazione di Laurenti che dice ma quello è un giornalista, è sempre stato della Juventus. Questo mi sembra una cosa, sì, non dico vergognosa, ma di più. Allora, separerei il grano dalla pula. Massimo, separerei il grano dalla pula. Lo facciamo subito dopo, come dicevano i vecchi, i contadini. Ci sono un sacco di cose mescolate insieme. Lo facciamo magari dopo la borsa. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Torniamo dopo il GR delle 15, la sfida campale Capuano Pardo per la schedina, ma poi parleremo anche sempre dopo le 15 della partita di stasera, che in altri tempi avrebbe infiammato l'Italia per un paio di settimane almeno, al netto di episodi arbitrali controversi, e che stasera invece è una normale partita di un campionato che la signora ha già in tasca, cioè Juventus-Milan. Parleremo di molto altro, ma adesso dobbiamo, se siete d'accordo, Capone Pardo, separare il grano dalla pula. Di sta storia del piagnisteo napoletano, francamente, mi pare una vicenda un po' di retroguardia ormai. De Laurentiis l'altro giorno ha commesso qualche errore, si è vestito un po' da Masaniello, non si mette alla berlina in questo modo, non perché è un collega, ma non si farebbe in nessun altro ambito un giornalista. E detto questo, basta, direi che sia finita lì, no? Avete qualcosa da aggiungere? Non sì, so. Sì, no, ma sono d'accordo, se vai, che è il grano della pula. Parliamo sì, anche il forlo dall'albume, sì. Prepariamo tutto, no? Io penso che De Laurentiis ha il grande merito di aver riportato il Napoli a livelli importantissimi. C'è il vento, Pier. Portati sotto coperta, Giovanni. No, De Laurentiis ha detto delle cose in parte ricevibili, in piccolissima parte condivisibili, cioè il disprezzo verso ciò che accade in tanti stadi tutte le domeniche nei confronti dei napoletani, che poi va allargato anche nei confronti di tante altre cose, dei torinesi. E poi giriamo pagina. A me la cosa che preoccupa è che in realtà tanti napoletani la pensano come De Laurentiis, e questo un errore. Però insomma, mi viene quasi il sospetto il Napoli crescerà in guarda, questo mi viene quasi il sospetto di una quasi di una manovra congegnata per portare un po' per fare davvero Masaniello, ma proprio per questo, dalla sua parte lui tirando fuori quegli argomenti, in realtà parla alla pancia di gran parte del tifo napoletano, sì, soprattutto alla pancia del tifo napoletano che non lo ama fino in fondo, perché c'è ancora una frangia del tifo napoletano che non lo ama fino in fondo. Secondo me nella storia del Napoli è stato ed è un grande presidente. Alessio da Perugia. Sì, salve, buonasera, sono un tifosissimo della Roma, vorrei parlare per quanto riguarda la Roma. Due cose, la prima è che assolutamente manca la società a Roma, quindi avendoci un presidente che sta a quanti chilometri non lo so, comunque sta a tanti chilometri. Però adesso da Roma. arriva, metà marzo, ormai quando sono scappati tutti i buoi, cioè in una settimana abbiamo buttato via tutto di ciò che abbiamo fatto di buono in un anno. E quindi volevo capire anche secondo Ogni volta che c'è una crisi si parla di queste questioni, anche se fatto questo discorso a lungo pure per l'Inter, no? Ti ricordi, Giovanni, quando si diceva ma il problema è che il presidente è lontano, che qui c'è solo ausilio. Sì, però Pallotta batte i record di assenza da è un assenteista, credo non sia a Roma da ottobre, se non ricordo male. È un assenteista degno di quelli che timbrano cartellino e poi vanno a giocare a tennis. Lui sicuramente ha delegato, era ad esempio Sabatini, che era una posizione forte, una figura forte, però è vero che in alcuni passaggi avere lì il capo è qualcosa che può aiutare. L'ha capito anche Zhang, però secondo me più che Zhang poté Pioli nel risollevare le sorti dell'Inter. Vero, più che Zhang poté Pioli, però la mossa di Zhang di mettere il figlio, di farsi vedere spesso, perché comunque Zhang viene praticamente a Milano una volta al mese. Va bene, questo è un problema reale, ma non credo sentire vicina. Sì, ma non credo che sia uno degli elementi della crisi della Roma, in cui ci stanno dentro anche tutti gli altri, compreso anche e soprattutto il dilemma intorno a Spalletti. Io credo un'altra cosa, Pierluigi, non so se Pier è d'accordo, al di là del fatto che Pallotta sta a Boston e a Roma ci viene due volte all'anno. Io credo che negli ultimi 2-3 mesi la società Roma sia stata concentrata su altro e forse abbia perso un po' di vista l'aspetto di campo. Perdonabile, perché la questione dello stadio è centrale per il futuro del club. Capibile, però evidentemente se è stata concentrata su quello si è persa di vista altri pezzi. Io non so, io credo che in questo momento, parlando del discorso sulla Roma, c'è una rosa che non è all'altezza, non dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista quantitativo. Cioè questa squadra sta pagando il fatto che è stanca. Sì. Ed è stanca perché, come diceva prima Giancarlo Dotto, ci sono pochi giocatori di un certo livello, quindi sicuramente un'operazione, due operazioni potevano essere fatte, e questo col senno di poi è quello che si può imputare a questa società. Luciano, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per la convocazione. Lei dica. Volevo fare un paio di considerazioni velocissime. Allora, la prima è che sento spesso molto fare considerazioni da parte di giornalisti che non hanno giocato a calcio, che comunque si occupano di calcio, di parlare sempre di fattori, quando ci sono delle crisi, sia per il Napoli che per la Roma ultimamente, parlano sempre di fattori esterni, tipo come mancanza di leadership, mancanza di società, mancanza di giocatori chiave. Per me, sentendo anche parecchi commentatori su Mediaset, su Sky, che hanno giocato a calcio, gli aspetti da considerare per quanto riguarda il calcio sono tre: qualità dei giocatori, condizione fisica e preparazione tattica delle partite. Sì, ma quindi non bisogna, non so, secondo me, serve. Non bisogna trovare di tante motivazioni filosofiche, il leader. Ma no, guardi, non serve aver giocato a calcio. La testa dei giocatori, come dice proprio a proposito di commentatori Mediaset o Sky, in questo caso Mediaset, è la cosa più difficile da allenare. È la cosa che dice continuamente Arrigo Sacchi: è molto più facile allenare un piede che allenare una testa. E la partita per esempio del Barcellona l'altro giorno ce lo dimostra, perché è una partita che secondo me è stata decisa dall'approccio completamente diverso che le due squadre hanno avuto dal punto di vista psicologico e dal punto di vista mentale. Quindi non sono questioni, non è astrologia, con tutto rispetto per gli astrologi. Esatto. La psicologia dei gruppi è un tema chiave, e quindi secondo me conta queste capacità, no, queste doti immateriali, spirituali. Altrimenti si comprano i giocatori, si prende un bravo allenatore e vinci. Se posso, vi faccio un altro paragone: che differenza c'era di rosa, di preparazione fisica e di altre cose nella Juventus tra Sassuolo, Juve e quello che è successo un giorno dopo, l'anno scorso? Non c'era niente, però quello è uno spogliatoio pieno di leader. È uno spogliatoio pieno di leader che in quel momento hanno preso in mano la situazione. Se non hai giocato a calcio, non puoi parlare. C'è Alessandro Moggi? Sì. Oh, Alessandro Moggi, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Senti, mi togli. Come va? Bene, molto bene. Voi state bene? Noi stiamo perfettamente, soprattutto Pardo. Mi togli un dubbio? Mi togli un. Mi svegli un arcano? Me l'ha chiesto Cruciani, Io ambasciatore non porta pena. Per che squadra fai il tifo? Non faccio tifo per nessuna squadra. Io Purtroppo lavorando in questo mondo mi devo astenere dal tifare chiunque. Ah, va bene, ora riporto a Cruciani. Non fai il tifo per nessuna squadra. Viviano... Ma come vuoi pensare che non uno ci crede nessuno? No, no, è vero. No, non tifo. Comunque non lo direi mai, questa è la verità. Pardo lo sa? Per chi ti fa Alessandro? No, io non so niente, però francamente invece io mi ero bevuto la tua risposta, nel senso che quando no, uno... No, ma è vero, immagino, per Luigi, è vero. È vero, non è vero? Tu possa rifare il tifo. Capuano dice è vero. Alla fine io tifo per i miei clienti, che mi sembra la cosa questo, più spiaggia. Questo sì, però io non me la bevo. Ma anche perché come fa un procuratore a tifare? Che magari un'estate è amico di una società, un alleato, l'estate dopo ci litiga. Anche Alessandro Moggi è stato bambino, ha avuto nel suo figlio di... È vero, però sua fatica letteraria, quando eri bambino tuo papà era nel periodo di Napoli, esatto, di Maradona, no? Sì, insomma è stato anche prima, se vogliamo, alla Lazio, alla Roma, al Torino. Sì, è inutile che io... mi fai la cronista. In quel periodo lì ti favo per mio padre. Io non faccio l'investigatore. La confusione in testa che hanno i figli dei militari che vanno... Dove sei cresciuto? Magari 2 anni da una parte, 2 anni dall'altra, perché gli americani si identificano. E dici, questo figlio di a chi ti è venuto in mente questo titolo? Devo dire che è particolarmente efficace, nel senso che sì, è molto figo. Molto figo. È un bellissimo titolo. Il libro l'ho cominciato a leggere, è un libro pieno di aneddoti, nel quale sicuramente non fai 0-0, nel senso che dici tante cose. Il titolo come l'hai pensato? Ma il titolo è volutamente provocatorio, l'ho pensato perché ho passato una vita, sto passando la vita ad essere chiamato il figlio di Moggi, in realtà non vuole essere riferito nello specifico a questo, ma voleva essere appunto provocatorio ed aperto a mille significati, poi ognuno dà il suo, insomma. E com'è essere il figlio di Moggi, oltre che un procuratore che continua a lavorare, che ha una sua professionalità e che insomma, voglio dire... Lavora in questo mondo indipendentemente dal padre, ma credo senza rinnegare niente, con quei rapporti anche normali di affetto che esistono fra persone che si vogliono bene. Com'è? È diventato una zavorra? È diventato complicato? Ma no, dai, alla fine io dico sempre, insomma, la mia professione si divide, cioè la mia carriera professionale a livello di anni si divide in due parti precise, perché io sono stata nel 1993 e fino al 2006, diciamo, ho avuto questo grande vantaggio di essere Alessandro Moggi, quindi figlio del re del calciomercato. Poi, diciamo, con quello che è successo nel 2006, qualche piccolo problemino, diciamo, in quel momento è venuto fuori. Però, onestamente, credo, quello che ho fatto successivamente lo dovrebbe testimoniare, di aver dimostrato di non essere semplicemente figlio di Luciano Moggi, ma di avere una mia professionalità e insomma di dimostrare che quello che facevo prima con discreto successo l'ho fatto e lo faccio tutt'oggi. Certo. Ci aspetti un attimo per il traffico. Traffico, continuiamo. Tutti convocati. I love this game. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. C'era Giovanni Capuano che aveva una domanda per il figlio di Luciano Moggi. No, io, siccome parlavamo prima di Parigi, del Paris Saint-Germain, e Alessandro Moggi è uno che conosce bene quella realtà lì, volevo capire come si spiega lui quello che è successo l'altra sera. E se ha l'impressione, come dicevamo prima, in tanti in Francia hanno, che magari gli emiri possano un po' stancarsi del giochino, visto che non vincono mai in Europa. Beh, comunque vincere in Europa non è mai semplice. È chiaro che immagino che sia stato abbastanza brutto per loro, alla luce anche degli investimenti che fanno costantemente, vedere una disfatta di questo genere. Io ho mai visto una roba così, ma non ho mai visto neanche una feroce agonistica. Anche perché non c'è mai stata. Sì, appunto, no, ma io mi riferisco anche alla partita, ora al di là del risultato numerico, però vedere il primo tempo del Barcellona è stata una cosa incredibile, non riuscì, il Paris Saint-Germain non riuscì a passare, non dico la metà campo, non riuscì a mettere insieme tre passaggi consecutivi, e tutto questo per l'intensità, per la cattiveria agonistica messa in campo dai giocatori del Barcellona. Poi secondo me, dopo il primo gol, loro, Paris Saint-Germain, probabilmente arrivato in campo in una condizione evidentemente psicologica complicata, con insomma, subendo il primo gol dopo solo due minuti, probabilmente è crollato tutto. E poi anche un po' il caso, perché se vogliamo, insomma, fare tre gol in otto minuti alla fine di una partita così è un po' casuale. Ci sta dentro tutto, ma infatti nel pacco ci entrano anche gli errori arbitrali, che peraltro a Parigi, sui quali hanno glissato, dandoci una lezione, se possibile, anche su come. Su come si perde, su come si subisce una disfatta, no, Pardo? Assolutamente. No, io ho due curiosità. Una sul mobile, che mi sembra, insomma, ormai abbia scavallato. Era già successo ai tempi del Toro, ma mi sembra ormai sia entrato in una dimensione veramente dei grandi attaccanti, quelli dei crack, dei giocatori che possono fare la differenza. E quindi gli chiedo qualcosa di più su come è nata l'idea della Lazio, l'università che l'altro giorno ci ha raccontato che c'era stata anche un'ipotesi Napoli, quanto può valere. La seconda cosa su De Laurentiis, perché ho cominciato a leggere il libro, c'è un passaggio abbastanza divertente sul primo incontro con De Laurentiis e poi su un mancato saluto che c'è stato a Capri poco tempo dopo, e mi chiedo che idea si è fatta del De Laurentiis uomo, no? Perché poi che abbia ottenuto dei risultati fondamentali e straordinari con Napoli in questi anni è indiscutibile, però certe osservazioni francamente lascia un po'. Aggiungo anche, per la fredda cronaca, in quali rapporti sei, Alessandro, con De Laurentiis? Allora, parto da Immobile. Da Immobile. Partendo da Immobile, diciamo che l'idea Lazio è nata su una precisa telefonata che io ho ricevuto da Tare, con il quale comunque stavamo dialogando già da tempo, e niente, insomma, ha manifestato l'interesse per il ragazzo. Abbiamo fatto una serie di valutazioni con lui, insomma, andando a verificare quelle che potevano essere effettivamente tutte le prospettive da un punto di vista di squadra, di programmi, tattiche. Quindi oggi lui, se non sbaglio, ha dichiarato in un'intervista l'importanza che ha avuto Inzaghi in questa trattativa, e devo dire che è stato fondamentale. Ora, al di là della società che, insomma, ha creduto subito in questa operazione, ma anche il mister ha spinto tantissimo, e i risultati che sta ottenendo la dicono lunga sul successo totale di questa cosa, di questa operazione. Siamo tutti contenti, sono d'accordo con Pierluigi quando dice che sta ormai consolidando la sua fama di bomber importante. Credo che, insomma, se tutto procede come sta andando adesso, possa anche superare il record dei 22 gol che aveva fatto quando ha ottenuto il titolo di capocannoniere qualche anno fa. Alessandro, prima di andare su De Laurentiis, no, dimmi. No, su De Laurentiis. No, prima di andare su De Laurentiis, secco, visto che si parla di Immobile, a me viene in mente anche il gemello, cioè Belotti. 100 rivale? 100 secondo me no. È stata sicuramente un attaccante di grandissimo valore, probabilmente in questo momento è, insieme a Ciro, come dicevamo prima, il più forte attaccante italiano degli ultimi anni. E però 100 milioni, insomma, una cifra che spaventa un pochino. Credo che sia stata una abilissima mossa del presidente Cairo, con una grande attività di marketing, quella di fissare una clausola così grande. Come dicevo, con qualche addetto ai lavori in questi giorni, oggi nessuno mai si sognerebbe, al di là del reale valore di Belotti, di andare da Cairo a offrire 40 milioni, perché sembrerebbe quasi un'offesa. Sarebbe quasi offensivo. Senti, un minuto per i tuoi rapporti con De Laurentiis, per la domanda di Pardo. Ma insomma, i rapporti miei con De Laurentiis si sono un pochino alternati negli ultimi anni. Ho raccontato nel libro alcuni aneddoti, secondo me, interessanti, gustosi per gli appassionati di calcio e di calciomercato in particolare. Diciamo, De Laurentiis è quello che abbiamo visto, insomma, in questi giorni, dopo le due partite contro il Real Madrid. Prendere o lasciare, alla fine, sostanzialmente. Quindi nel mio caso faccio il professionista, purtroppo ci siamo scontrati varie volte, poi abbiamo avuto, devo dire, anche una occasione proprio nello scorso calciomercato di coincidenza di idee riguardo l'operazione di Tonelli. Avrei portato io anche Tonelli a giocare al Napoli, questa coincidenza di idee poi è sparita nel caso di Lapadula, che doveva venire al Napoli, o comunque lui voleva che lui venisse al Napoli e poi è andato al Milan. È andata così. Grazie Alessandro, a presto. Ci vediamo presto. Grazie. Ci sentiamo grazie. Presto. Grazie Alessandro Moggi. Allora, GR. Il libro a breve. Sì, a GR, sì. GR e poi fuori secondi la schedina, Capuano Pardo e poi viriamo su Juventus Milan. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Ed eccoci al momento più atteso della settimana. Faccia a faccia, Capuano Pardo per la schedina. Pronti? Capuano. Faccia a faccia per modo di dire. Allora, io faccio l'arbitro. Vai. Imparzialissimo. De Luca fa il notaio. Allora, si parte dalla partita di stasera di cui tra poco parleremo. Juventus Milan. Capuano. 1. Pardo. 1. Genoa Sampdoria. X. 1. Chievo Empoli. 1. 1. No, scusa, Chievo Empoli detto? No, sì. X posso, scusa, perdonatemi. Sì, vabbè, puoi okay. Correggere. 1. 1. 1. Fiorentina Cagliari. 1. 1 anche per me. Inter Atalanta. 1. 1. Napoli Crotone. 1. 1 1. Pescara Udinese. Ecco, Pescara Udinese è la partita su cui girerà tutta la domenica. Sarei quasi tentato di dirti 1, ti dirò X. 2. Palermo Roma. 2. 2. Per chiudere lunedì. No, ne manca una però della domenica. Manca Sassuolo Bologna. Sassuolo Bologna. Sassuolo Bologna, io ti dico 1. Sono le classiche partite proprio quelle. X. Allora X lunedì Lazio-Torino. Lazio-Torino. Lazio-Torino. Vai Pier. 1. X. Preso nota? Ciao Pierluigi. Vabbè, Pardo. Ragazzi, posso dire, mi sembra quasi inutile. Sembra come rubare in chiesa. Mamma mia, sembra quasi inutile. Ce ne sono 5 diverse, carissimo. 5 diverse. Lazio-Toro proprio non c'è discussione. Su senti, quale sicumera il signor Pardo finirà 7-4, 7-5 per me. Ho paura di Sassuolo Bologna. Sentite di quali sicumera finirà 7-5 per me. 7-4, 7-5 dichiara Capuano. Pardo, che sicumera, ragazzi. Che sbruffoni che siete. Ciao Pierluigi. Apollo Grips e Rocky Balboa. Ciao ragazzi. A domenica, ciao. Giovanni, è il momento di... È il momento di Juve Mia. Juve Mia, ne parliamo, no? Ne parliamo. Parliamo. 800240024, così. Alessandro per Mandžukić, col tacco. Bene ancora per Alessandro, che va al cross, basso dentro. Arriva Higuaín, che anticipa tutti e con l'esterno. Fa 1-0 per la Juve. La Juve. Domani è una partita, innanzitutto Juventus-Milan. Il Milan viene da dei risultati positivi, è una squadra che non muore mai, è una squadra che è sorniona, sembra che esca dalla partita, però ha grande velocità, grande tecnica e poi dopo è sempre Juventus-Milan e nonostante la differenza di punti che c'è in campionato e che c'è stata negli ultimi campionati, quando c'è Juventus-Milan sono sempre partite molto equilibrate. Arrivando Locatelli, buona posizione per lui, prova il tiro, rete incredibile, Locatelli, incredibile, 18 anni, Milan-Juve, Locatelli, gol all'incrocio dei pali. Sicuramente non è una finale, ma l'atteggiamento deve essere quello, insomma, dobbiamo prepararci per dare il meglio, perché vogliamo fare il risultato positivo, vogliamo provare a vincere, vogliamo vincere. La sfida è quasi proibitiva per quello che è il cammino anche della Juventus stessa nel proprio stadio, quindi abbiamo questo tipo di mentalità, questo tipo di approccio, questo tipo di aspettativa da mettere in campo da subito, ma da mettere in campo anche da oggi e non soltanto da quando inizierà la partita domani. Tanto la schedina divide, stanno arrivando un sacco di messaggi. Sara, Gabriele da 100, che spertone, no, date sempre divide, perdente divide, il Milan divide. E poi vince, però questa sera. No, stasera il diavolo all'inferno, mi è venuto questo titolo. Abbiamo con noi Franco Ordine, che saluto, e Massimo Zampini, che pure saluto. Ciao ragazzi. Ciao. Buon pomeriggio. Saluti. Che vi giocate voi per stasera in schedina? C'è qualcuno che mette due fisso? Massimo sicuramente no, due fisso no, ma neanche uno fisso. Io e Milan l'abbiamo visto, ha ragione Allegri, abbiamo visto negli ultimi due anni, tra Supercoppa, Coppa Italia, campionato, tutte partite molto molto equilibrate al di là dei valori, è sempre Juve Milan. Sì, è una di quelle partite che in altri tempi ne avremmo parlato per non so, 10 giorni al netto degli errori arbitrali. In caso di errori arbitrali un mese e mezzo. Poi diciamo due cosine. Beh, anche su dipende per chi fosse l'errore arbitrale, sì. Insomma, a seconda. Se ne parla un po' a seconda di chi viene favorito. Oh, questo vittimismo, Massimo. Mamma mia. Mi sembri napoletano. No. Sì, proprio il classico cagnisteo piemontese. Pronto a essere ricoperto di guano come un monumento di quelli, sì. Di quelli che stanno in piazza. No, dicevi Giovanni? No, diciamo anche due cose sulla designazione. Stasera arbitra Massa da Imperia, che è un ottimo arbitro, per carità, però era l'addizionale che dietro la porta all'andata convinse Rizzoli e Cariolato a fare tutto il casino e alla fine ad annullare il gol di Pjanic che era regolare. Ora, insomma, ci sono 30 arbitri in Italia, ma possibile che andasse designato proprio quello che farà benissimo? Ma se per caso dovesse sbagliare a favore del Milan, si dirà che è pregiudizialmente contro la Juve. Se dovesse sbagliare a favore della Juve, si dirà che era sotto pressione perché c'era l'errore dell'andata. Poi, dopo che ho letto questo messaggio, Roberto, sinceramente ragazzi, se quel rigore del 5-1 si riferisce a Barcellona-Paris Saint-Germain fosse stato dato a una Juventus, per quanti anni se ne parlerebbe? Poi. Sì, allora... condivido l'impostazione del ragionamento di Giovanni. Non condivido l'aggettivo dedicato all'arbitro Massa, ottimo, no, assolutamente non è un ottimo arbitro, è un arbitro normale, diciamo così. Trovo che la designazione sia un atto molto rischioso da parte del designatore Messina, che pure mi sembra persona molto accorta. È un azzardo che secondo me incide in maniera clamorosa sulla psicologia dell'uomo, perché è evidente, lui è quello che passa per il responsabile dell'annullamento del gol di Pjanic. Quando finisce la partita a San Siro, vi ricordate Allegri che da quando è a Torino è diventato particolarmente attento alle vicende arbitrali, non lo era onestamente molto prima. Deve essere l'aria di Torino. A me pare il contrario, esatto. Deve aver parlato con Zampini. Sì, no, ma deve aver parlato con Zampini e deve aver respirato forse è l'aria di Vinuovo che produce questo effetto. Io allora, voglio dire, secondo me, un azzardo eccessivo. Proprio perché c'era questo precedente, secondo me andava evitato. È vero che hanno spedito l'arbitro che secondo me, il mio punto di vista, è il migliore al derby di Genova, però onestamente una inversione di questo tipo non avrebbe sicuramente provocato un maremoto della domenica calcistica. È interessante questo, Zampini. Su Allegri è l'esatto contrario, siamo in epoca di post-verità, però cioè dire che Allegri alla Juve parla di arbitri, al Milan no. Io ricordo un Allegri che parla 6 mesi del gol di Montari, alla Juve dopo il gol di Pjanic gli hanno chiesto e lui ha detto abbiamo sbagliato noi e basta. Dire che alla Juve si parla di arbitri, no. Scusa, ma Massimo, no, sì. Vedi, tu quando parli della Juve, siccome sei uno bello sul pezzo tutti i giorni, sei attendibile. Quando parli dei precedenti non sei più attendibile. Io ti posso garantire, documenti alla mano, che chi ha chi ha parlato per 6 mesi del gol di Montari è stato Galliani e il Milan inteso come società. L'allenatore dell'epoca, e cioè Allegri, non ha mai parlato di Montari. Ma non è così. Io ho scritto un grandissimo capolavoro della letteratura che chiamava il gol di Montari, dove riprendevo parecchie dichiarazioni di Allegri che andavano avanti ad aprile, a maggio, eccetera, eccetera. Alla Juve se ne trovate una. Se ne trovate una. Anno 2012? 12. sono passati 5 anni, ragazzi. In prescrizione. No, ma io la memoria, io siccome io prescritto, le ho fatte, prescritto. Io per lavoro le ho fatte tutte le conferenze di Allegri e continuo a farle ringraziando il Signore perché mi dà la salute. Per cui io me lo ricordo perfettamente. Il libro di Zampini, che adesso, del quale adesso sicuramente mi procuro una copia. Adesso vado in un io. No, no, ecco, se me la regali è meglio. Allora, io il libro di Zampini, secondo me, tira fuori cose dette non so dove, nelle conferenze stampa di Allegri, ti posso garantire. Allora facciamo una cosa. Chiediamolo direttamente ad Allegri, che è l'interessato, se conferma la mia tesi o la tua. Guarda, googlate Allegri Montari e capite. Adesso Google. No, tu, se tu vai su Google trovi anche delle mie dichiarazioni contro il concetto Lo Bello. Allora, faremo l'esegesi del testo del libro di Zampini. Allora, lo prometto in questa cosa è sera. Certa però, che Allegri alla Juve non abbia mai parlato di arbitri, nonostante quest'anno chi abbia seguito la Juve sa qualche piccolo episodino contrario c'è, questa è l'unica cosa certa, quindi ricostruire dicendo Allegri a Finovo si preoccupa di arbitri, no, questa è proprio una post-verità. Se posso dire una cosa che chiude tutto, sì. Allegri nell'intervista a Paolo Condò a Sky disse sicuramente in quel momento sbagliai a fare polemica perché non dovevo fare dialettica con la Juventus, noi eravamo più forti, eravamo in testa al campionato ed era successo un episodio che nel calcio può capitare. 14 luglio 2015. Esatto, ma lui si riferisce a Giovanni Capuano, guarda che con me non passa. Allora, quello si riferisce alla polemica con Marotta. Vi ricordate che ci fu un botte e risposta tra Allegri e Marotta? Ma non si riferisce alle polemiche con gli arbitri. Allora, la sintesi, dico bello chiaro. Allegri, da quando sta a Vinova a Torino, parla non pubblicamente di arbitri, ma fa la battuta dopo Milan Juventus. Lui non dice pubblicamente, quando passa Massa, interrompe l'intervista, si gira verso Massa e fa: Massa, mi raccomando, hai capito? Quello vale più di 100 interviste. Questo? Mi raccomando, come per dire, hai fatto il cattivello, adesso la prossima volta ripara. Questo vuol dire. Questo l'hai detto tu. Lo dico io, mica lo puoi dire tu. Con la tua fedina calcistica non lo puoi dire. Lo dico Franco. Franco, diciamo che in un'epoca in cui dopo Juventus-Napoli, Juventus-Inter, partite in cui c'è il nulla arbitrale, stiamo per una settimana a sentire Piagnistei, una battutina dopo un gol annullato dopo un minuto di proteste, buono, di un metro, fatta all'arbitro che passa, ora dice questa gliela possiamo passare, insomma, almeno ragazzi, questo. Ragazzi, posso chiudere il discorso, tutta questa discorso divertentissima, questa discussione divertentissima, andrei avanti per ore, però dimostra quanto nulla conti ai fini calcistici. Lo Juventus Milan di questa sera allo Stadium, dove la Juventus vince da 30 partite consecutive, quindi 30 volte senza vedere l'avversario che porta a casa la pelle nemmeno lo straccio di un punto. C'è stato un tempo in cui questa partita decideva le Coppe dei Campioni, decideva gli scudetti italiani. Oggi abbiamo la signora del calcio italiano che ha ben salda nei suoi programmi e piani presenti e futuri. Abbiamo melassa, Milan. Carlo. No, ma che melassa? Ma melassa di che? Franco. Questa è zucchero filato. Allora, io invece ti dico, puoi fare una scommessa? Dimmi. Questa sera l'arbitro Basta ne combina almeno uno o due di errori? Vuoi fare una scommessa? Il discorso è la designazione di Massa un rischio inutile, questo è il titolo. Questo Franco ha ragione, ma anche una vicenda interessante mi ricorda Mazzoleni, forse una sfida. Mazzoleni mandato a Bologna Inter, Mazzoleni era quello dietro la porta, Icardi, Mandzukic, cioè, non rifacciamo. È una designazione rischiosa e quindi siccome è rischiosa, sbagliata. Va bene, allora, Franco? Ne parliamo domenica? Sì, vai. No, non lo so, il padrone di casa domenica è Capuano. Ho dei video che testimoniano Allegri Muntari, ma ne parliamo domenica. Ottimo, ci voglio essere. Domenica, no, perfetto. Allora, ordine Zampini, li chiamiamo domenica, Giovanni. Sei tu il padrone di casa? Sei tu il padrone di casa? No, chiamali anche perché io domenica sono malato. Ho un po' di mal di gola. Un altro libro da opporre al libro di Zampini. No, io però ho una domanda da fare, perdonatemi a franco ordine. Ma perché stasera Romagnoli gioca terzino, come fatto solo una volta con la Samp e non con grandi risultati? Perché, allora, non con grandi risultati, non dal punto di vista difensivo, perché la Samp in quella circostanza riuscì in un record assoluto mondiale a vincere 1-0 sul rigore senza aver fatto un tiro in porta né prima e soltanto dopo il rigore. Aggiungo che fa così perché secondo me gioca 5, perché... sì, perché avendo delle bestie lì davanti da controllare, Mandzukic, Dybala e Higuain, è evidente che si gioca tutte e tre le sue torri, cioè Romagnoli, Paletta e Zapata, e cerca in qualche modo di fare una partita in cui la fase difensiva è prevalente rispetto a quella offensiva. Credo che sia questa la motivazione, anche perché obiettivamente Bangioni dal punto di vista difensivo non dà il massimo del rendimento. No, non è il massimo della vita. Allora, ci sentiamo domenica. Anzi, vi sentite domenica? Io vi ascolto per radio, se l'arbitro Massa ne combina qualcuna, perché ho un leggero mal di gola. Ciao, ragazzi. Ciao. Capito, Capuano? Capito. No, se Massa fa qualche, qualche problema, io sulla designazione, insomma, io sono malato. È una discussione che si può fare. Posso dire una cosa? So che tu hai già fatto due giorni fa, ti rubo 10 secondi. Ah. Un abbraccio al mondo. Un abbraccio al mondo grande come il mondo. Ce lo stanno chiedendo anche in tanti che scrivono. No, e quindi, insomma, noi gli abbiamo fatto sapevamo che c'erano problemi, lui ha deciso di raccontarli. Noi lo sapevamo. Due giorni fa gli abbiamo fatto gli auguri per il compleanno. Lo abbracciamo e gli facciamo un abbraccio grande come il mondo. Giacomo Bagnasco, c'è questo Sei Nazioni con Italia-Francia, chissà se verrà inventato qualcosa di nuovo, ma di mai visto nel rugby. Beh, per forza bisogna inventare qualcos'altro se si pensa di voler ricorrere di nuovo al fattore sorpresa, perché la Fox, come è stata chiamata questa giocata, la Volpe, ormai è stata capita, interpretata e si sa quali sono le contromosse, visto che si parla di arbitro, si spera di avere un arbitro altrettanto brillante come Romain Poit contro l'Inghilterra. Per questo Italia-Francia c'è un arbitro giovanissimo, 28 anni, si chiama Ben O'Keefe, è neozelandese, fa l'oftalmologo, quindi la battuta è facile, dovrebbe vederci bene. Ci sono anche dei giovani in campo o in panchina, c'è un esordiente per l'Italia in panchina, Sperandio, 21 anni, un 22enne terza linea Sanconi che esordisce per la Francia, che manda in panchina addirittura un 20enne Dupont. Una partita tra due squadre diciamo diversamente deluse, ma entrambe deluse da questo Sei Nazioni. La Francia, pur giocando bene, pur abbinando la carica fisica di molti giocatori che oltretutto provengono dal Sud Pacifico, alla classe in dubbia, soprattutto dei suoi tre quarti, ha perso due partite su tre. Ne ha perse due su due in trasferta e ha la sua unica possibilità di un successo esterno proprio domani. L'Italia, lo sappiamo, rischia il secondo consecutivo cucchiaio di legno, però diciamo che quello che è successo in Inghilterra, secondo me, ha un po' di ottimismo l'ha ridato. Un po', benissimo, allora aspettiamo questa gara. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Così ci sta risollevando gli umori, o forse ci sta illudendo, non so, la Ferrari che va come una saetta a Montmeló in un test che, insomma, precede di non molto l'inizio della stagione in Australia. Antonio Busari da Sky. Ciao Antonio. Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, credo che sia una ventata di ottimismo e di buon umore dopo un inverno che era passato. Importante un po'. Importante che non sia un lampo nel buio. Sì, esatto. Però diciamo che in inverno si erano sparse le voci anche su una macchina che non si sapeva bene, il passo lungo, il passo corto. In realtà ha dimostrato in questi test di essere sulla carta, per quello che stiamo vedendo, la macchina più veloce che c'è in pista. L'ha dimostrato anche oggi Raikkonen. Ma ti risulta questa, su questa storia del passo lungo, passo corto, che sappiamo che l'Inghilterra è la casa della Formula 1, la casa di molte scuderie, delle scuderie più importanti, la casa dei regolamenti, che questo, che ci sia stato una sorta di misunderstanding sul regolamento, cioè che la Ferrari, gli altri abbiano saputo del passo lungo, la Ferrari l'abbia saputo in ritardo, quindi non ha potuto costruire una macchina seguendo quel regolamento? Io ho sentito anche sta voce. Guarda, assolutamente ti posso dire che è stata una scelta filosofica diversa, progettuale. Per farti l'esempio, la Mercedes, che è la squadra e la macchina che ha dominato gli ultimi tre campionati, ha deciso di optare per una macchina con un passo più lungo, sì. Con delle incognite, perché probabilmente nel breve periodo si riesce poco a ottimizzare la prestazione della macchina, mentre se riusciranno a sviluppare bene il monoposto vedremo una Mercedes che nel corso della stagione riuscirà a sviluppare bene la macchina. Al contrario, la Ferrari è sembrata scegliere, diciamo, un progetto un po' più conservativo. Mm-hmm. In realtà le prestazioni della pista ci dicono che non possiamo che dare assolutamente la promozione alla Ferrari per le prestazioni in pista, per l'affidabilità che è eccezionale, forse la migliore che abbiamo visto, ed evidentemente ci sono delle soluzioni che non abbiamo ancora, come succede spesso in Formula 1, ancora valutato bene. Mm-hmm. E probabilmente nel corso della stagione potremmo anche scoprire che la Ferrari, la SF70H, ha delle soluzioni innovative, diciamo, guardandola le pance hanno una forma diversa da tutte le altre monoposto. Sì. Però chissà che non nascondino delle altre soluzioni che così a prima vista non si riescono a cogliere. Nei fatti, quello che abbiamo visto in pista, possiamo dire che la Mercedes magari si è anche nascosta. Però è incoraggiante. Nelle simulazioni di gara è incoraggiante perché è una macchina che è nata bene. Come direbbe, trova il tempo se, come direbbe, anzi ha detto mio amico Leo Turrini, quell'H sta, hai visto mai che sia la volta buona. Ciao Antonio Boselli. Io tremo quando sento di filosofia facendo la macchina diversa dalla Mercedes. Tremo. Senti, ci vediamo forse domenica. Ci vediamo domenica, non so dalle se 17. Vengo. Dipende cosa fa Massa. Ci sarà un puntatone, Ci sarà un puntatone, parleremo di Massa, della crisi della Roma. Dipende parleremo da cosa... del derby di Marassi. Allora, se dipende da cosa fa Massa, io già ti dico che ci sentiamo per domenica. Ne parliamo. No, ne parliamo, ci sentiamo. Ci sentiamo prima. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, nostro autore, Andrea Roccabella oggi in regia. Ciao a tutti, ragazzi.